Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. The birds they sing at the break of day. Valeria ha 55 anni, è una scrittrice di successo, famosa, vive a Parigi. Da circa 25 anni ha una relazione clandestina con Martin, un facoltoso argentino che vive a Londra con moglie e figli. Un giorno Martin ha un ictus, entra in coma e viene, diciamo, poi riportato in casa per le cure. Valeria, per stargli vicino, commissiona un ritratto alla moglie di Martin, Ayla, che fa appunto la pittrice. In questo modo, posando per lei, può stare vicino appunto all'uomo che ama. Questi sono alcuni degli elementi di trama di Il ritratto, scritto da Ilaria Bernardini, pubblicato da Mondadori. Ilaria Bernardini era stata già ospite in passato del Cacciatore di Libri, per esempio con il penultimo romanzo Faremo Foresta. Concentriamoci sul personaggio appunto di Valeria, la protagonista. Valeria è una donna che ha scelto di essere autonoma e ha scelto anche la solitudine e la distanza. Lo dice nel romanzo che lei vive questa relazione clandestina non come qualcosa per la quale accontentarsi, ecco, di cui accontentarsi, ma l'ha fatto proprio per scelta. Quando parla della sua relazione con Martin, dice: io non avrei voluto un matrimonio, dei figli, cioè questa situazione mi sta bene così. Che tipo di donna è Valeria? Valeria è una donna, come tu dici, indipendente e che celebra la sua solitudine, la coltiva, ne fa come uno spazio sacro, perché è anche lo spazio della sua creatività, della sua scrittura, delle sue storie, e soprattutto è lo spazio che lei tiene anche per sua sorella Sibilla, questa sorella che ha perso quando erano piccole, quando erano preadolescenti. E questa presenza, questa anche spettacolare assenza, è qualcosa che per Valeria resta importantissima, per cui il suo essere amante, il suo essere amare a distanza, Martin, è la unica distanza possibile in cui Valeria riesce ad amare, in cui riesce a sentirsi vicina, tra virgolette, a qualcuno, per cui lei è profondamente innamorata e dedita e, come dire, in qualche maniera si occupa anche di Martin, però nell'unico luogo possibile per loro. Per cui è un amante anche in questo senso completamente sui generis, non vorrebbe essere in nessun altro posto in cui quello che è, non vorrebbe la trama del matrimonio di Martin e Ayla, appunto di sua moglie, ma vuole essere esattamente sola, vuole essere esattamente libera e è a questa distanza. Hai citato il personaggio di Sibilla, la sorella di Valeria, lo possiamo dire che è la sorella sostanzialmente che purtroppo muore di cancro quando loro sono molto giovani. Loro avevano passato l'infanzia in Grecia, a Rodi. E sembra quasi che anche la voglia di Valeria di scrivere storie, di inventare storie, sia nata anche nel momento in cui la sorella si era ammalata, perché per esempio chiaramente la sorella non può andare a scuola, allora lei si inventa che la scuola è stata chiusa improvvisamente, non nessuno va a scuola e poi insomma da lì inizia anche la sua voglia di scrivere storie. C'è un legame fra il dolore che Valeria insomma ha provato per questa perdita e la sua voglia di inventare storie. Assolutamente, nasce tutto, comunque la scoperta avviene e la rivoluzione avviene esattamente in coincidenza con questo bisogno di piani B, C, D, di invenzioni magiche che portino la realtà a riempirsi di altre possibilità. Per cui quando Sibilla si ammala, quando Sibilla non cammina più attraverso l'isola al fianco di Valeria, anche per riempire questo vuoto, per sconfiggere o attraversare, soprattutto più che sconfiggere questo dolore, Valeria inizia a mentire, le menzioni diventano quasi invece dei piccoli racconti. Questi racconti diventano la maniera stessa di Valeria di stare al mondo e di respirare. È una sensazione per lei irresistibile, quella della ricerca continua di altre versioni possibili di una trama. Non a caso questo libro stesso, Il ritratto, è strutturato in una maniera per cui quello che pensi che sia la storia iniziale viene continuamente ribaltata, e ci sono mille punti di vista con cui riscoprire quella che pensavamo essere l'unica verità possibile, quella della madre di Sibilla, quella di Martin, quella della moglie, quella di Antonia, così come appunto all'inizio con il dolore, con la malattia di Sibilla. È questo proprio un libro e la maniera di scrivere e di vivere di Valeria, una sorta di danza e sinfonia delle mille possibilità con cui si attraversano la stessa esatto evento e con i punti di vista con cui lo si possono guardare. Infatti questo è un romanzo in cui ci sono appunto segreti, inevitabilmente anche bugie, svelamenti, e le situazioni cambiano a seconda del punto di vista poi dalle quali si guardano. Forse non è un caso che Valeria e Martin abbiano appunto questa relazione d'amore così profonda. Hanno entrambi un passato doloroso alle spalle. Abbiamo visto Valeria ha perso la sorella, Martin ha perso il fratello. È anche questo un elemento che li unisce, anche se diciamo nel romanzo non si sottolinea eccessivamente questo elemento, ma il lettore, almeno io da lettrice, ho percepito questo filo sottile che esiste anche fra loro due. Per me quel filo c'è ed è fortissimo, questa sorta di gemellanza, fratellanza del dolore, per cui hanno entrambi questa continua presenza di questa persona che amavano moltissimo e che hanno perso, è qualcosa che li rende forse gli unici due possibili davanti a questo specchio, ed è questo specchio che è stato il crollo della loro così felicità precisa e pura prima che fosse intaccata e distrutta in qualche maniera dalla vita, per cui la perdita di Rami per Martina, la perdita di Sibilla per Valeria, sono per loro sicuramente una parte di loro che li attrae uno verso l'altro, e gli unici a cui non possono dire non sai come mi sono sentito, perché entrambi si sono sentiti esattamente così. Per cui ci sono per esempio alcuni racconti, quando Valeria poi diventerà scrittrice, sceglie una strada con la sua scrittura anche di esplorazione proprio netta e profonda e dritta del dolore. Alcuni racconti per Martin sono intollerabili, non riesce a leggerli, glielo dice. C'è questo racconto di quattro sorelle che annegano e Martin dice a Valeria: non posso neanche finirlo, non posso leggerlo, mi fa troppo male. E Valeria gli chiede: e con la vita come fai? Infatti in questo romanzo ci sono appunto dei micro racconti che sono stati appunto scritti da Valeria, che magari Valeria ha letto a Martin e che il lettore del tuo romanzo legge, devo dire, con grande piacere. Sono delle storie nelle storie, sono delle micro storie. La maggior parte di questo romanzo è ambientata nel momento in cui Valeria entra nella casa di Martin per posare appunto per questo ritratto. Poi ci sono una serie di flashback per raccontare il passato sia di Valeria che di alcuni degli altri personaggi. Ecco, con che spirito Valeria entra nella casa dell'uomo che ama, ma è la casa che lui ha scelto coscientemente di dividere con un'altra donna? Valeria entra goffamente all'inizio in questa casa, imbarazzata lei stessa della bugia che si è dovuta inventare di doversi fare questo ritratto dalla moglie dell'uomo che lei ha amato tutta la vita. È molto imbarazzata, è il contrario di lei fare un gesto del genere. È stata un amante invisibile per 30 anni e non ha assolutamente idea se questa cosa di fare il primo passo e infilarsi in questa casa sia una cosa che la rappresenta in nessun modo o che Martin odierebbe. E questa questione la tormenta: se essere lì è una colpa oppure l'unica scelta possibile. Martin vorrebbe esattamente questo, le sue due donne sotto lo stesso tetto, al suo fianco, mentre tutto della vita, insomma, sta scomparendo. Quindi entra con il terrore, non sa che cosa sappia la moglie del suo innamorato, non sa nulla, quindi entra con una bugia e con questo senso di colpa e con questa paura. E poi con questa fragilità del dover essere studiata e guardata per un ritratto. Che cosa restituirà Ayla, la moglie, del volto di Valeria, di lei? Che cosa sa? Quello che però non si era mai in effetti domandata o chiesta o avventurata a pensare è che in effetti seduta di fronte ad Ayla, la moglie, anche lei, anche Valeria, avrebbe potuto guardare spudoratamente in una maniera che non sarebbe stata concessa in nessun altro contesto al mondo. Poteva stare seduta ore a spiare la bocca, gli occhi, le mani che anche Martin aveva guardato e amato. E questo anche in termini di credenze, di quello che Valeria crede, è una rivoluzione. In un'altra versione della storia Valeria e Alia si sarebbero anche molto amate, sarebbero state amiche, sono due donne in qualche maniera magiche, abbastanza grandi, e quindi scoprirlo è disarmante per entrambe. Effettivamente il rapporto che si crea fra queste due donne è insolito, ma anche molto intenso. Ovviamente poi bisogna leggere il libro per capire tutta una serie di sfumature e sfaccettature. C'è un altro personaggio femminile molto bello, che è la figlia di Ayla e Martin, Antonia, e questa quindicenne, come tutte le quindicenni, insomma, ha un rapporto un po' conflittuale e problematico con la madre, eppure con Valeria inizia a crearsi un rapporto di complicità. È così? Assolutamente. Antonia ha 15-16 anni, insomma, quell'età complicata e tormentata, e comunque suo padre sta malissimo, quindi si trova in questa situazione drammatica nel momento in cui forse appunto da sua madre si sente più distante che mai. Cosa sa anche Antonia? Questa è una cosa che scopriamo mano a mano. Di certo Valeria ha fatto la scelta nella sua vita di non diventare madre all'inizio, e poi insomma la vita l'ha portata a non essere madre, e questo incontro con questa ragazza che in fondo si affida e si apre a lei soltanto, è parte, come dire, dello slancio invece completamente vitale dell'Ino alla vita, che spero che sia in qualche maniera anche questo romanzo. Il loro incontro è una sorta di diverso tipo di genitorialità, di traghettarsi l'una insieme all'altra attraverso questo cambiamento per entrambe immenso, e forse questa unione fra loro due potrebbe anche durare per sempre, e entrambe avevano esattamente bisogno di questo. È difficile non dire certe parti, perché è un romanzo appunto pieno di segreti, di bugie, di svelamenti, e quindi anche per Antonia e Valeria la storia è fatta completamente di punti di vista di quello che hanno vissuto, per cui sono un enigma una per l'altra, e poi invece sono un avvicinarsi una per l'altra per molti motivi, ecco. C'è una frase molto bella di questo romanzo che la protagonista Valeria ripete, credo, due o tre volte. È una frase che lei sussurra virtualmente a Martin, che è in coma. Gli dice sostanzialmente: non scomparire, non lasciarmi scomparire, resta. Questo mi ha fatto pensare a quanto sia importante per noi l'immagine che ci viene restituita dalle persone che amiamo. Credo almeno che in Valeria ci sia, ovviamente, certo, la paura e il dolore per una possibile perdita, ma anche l'idea che lei possa perdere se stessa, perché perderebbe appunto un'immagine di sé che le viene restituita attraverso Martin. Valeria ha affidato tutto quello che vuol dire amare o poter abbracciare o dire ti amo, ti voglio bene, a un'unica persona, e questa persona era il suo amante, questa persona sta scomparendo. L'idea che non rimanga nessuno che l'ha vista con gli occhi dei 20 anni, dei 30, dei 40, a cui ha raccontato, che è il depositario insomma di tutte le sue storie, dei suoi segreti, a cui non ha finito di raccontare, per lei è terrorizzante. Questa idea della scomparsa è la vera idea di questa storia, per me era l'esplorazione di questo imparare a scomparire per tutti, nel senso imparare a scomparire che era l'imparare in qualche maniera ovviamente a morire, ma anche dallo scomparire dal centro della scena, per cui chi è il soggetto vero del ritratto, chi è il protagonista reale di una storia, l'avere appunto delegato questa poter dire ti amo. Valeria non riesce a dire a nessuno ti voglio bene, non riesce ad abbracciare nessuno, aver delegato a una sola persona questa idea della presenza, dell'esserci, che solo se lui rimarrà tu rimarrai, è proprio, come dire, per me la danza di quello che è nascosto dentro tutto questo coreografia degli affetti e delle storie di Valeria, Ayla, Martina, Antonia, dei gemelli, di Teodora la madre, di tutti. È per un periodo, questo romanzo doveva chiamarsi Imparare a scomparire, proprio per questo. Grazie a Ilaria Bernardini, ora in libreria con Il ritratto, pubblicato da Mondadori. Grazie Ilaria. Grazie Alessandra. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Sette opere di misericordia è un romanzo scritto da Piera Ventre pubblicato da Neri Pozza. È un romanzo ambientato a Napoli, siamo nel giugno del 1981, sostanzialmente la prima estate dopo il terremoto, e sono tra l'altro i giorni in cui Alfredino Rampi cadde nel pozzo artesiano e morì. Quello è stato un episodio importante nella recente storia italiana, è stato proprio un evento mediatico che aveva creato una commozione collettiva, aveva tenuto gli italiani proprio con il fiato sospeso. La tragedia di Vermicino la citiamo perché è un po' la cornice di questo romanzo, compare all'inizio ma soprattutto, diciamo, prenderà il sopravvento nell'epilogo. Per il resto, diciamo che la narrazione gira intorno alle sette opere di misericordia corporale, da cui appunto il titolo del romanzo, che è sì un'opera di Caravaggio conservata a Napoli, ma diciamo sono frasi del Vangelo, erano appunto le indicazioni che Gesù nel Vangelo aveva dato per ottenere appunto il perdono dai peccati. E quindi le ricordiamo brevemente: seppellire i morti, visitare i carcerati, dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, curare gli infermi, dar da bere agli assetati, ospitare i pellegrini. Ecco, queste opere di misericordia diciamo che vengono un po' incarnate nei personaggi e negli eventi di tutto questo romanzo, che è un romanzo corale. Rapidamente illustro chi sono i personaggi. C'è Cristoforo, che fa il guardiano del cimitero ed è sposato con Luisa. Poi ci sono i due figli, Rita e Nicola, e questa famiglia sta ospitando temporaneamente Rosaria, una ragazza di 16 anni che è rimasta incinta, quindi è stata cacciata di casa. Poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi. Ma partiamo però dalla tragedia di Vermicino, perché ho detto questa fa un po' da cornice al romanzo. Perché hai voluto inserirla? Io ho voluto inserire Vermicino perché in realtà sentivo una profonda esigenza di parlare di questo avvenimento della nostra storia, in quanto lo sentivo come una sorta di trauma collettivo in realtà. Ho sempre pensato a quell'avvenimento come uno spartiacque in qualche modo, e vissuto tra l'altro dalla mia generazione. Quindi l'idea di assistere a uno spettacolo travolgente nel senso emotivo del termine, senza avere la possibilità di una catarsi, no? Perché si aspettava che questo bambino venisse salvato, in realtà poi in quel pozzo ha trovato la morte. E tutto questo avvenne in una diretta televisiva per la prima volta nella storia probabilmente della televisione, eccetto forse l'allunaggio, insomma. E come disse poi Sciascia, in realtà l'uomo era andato sulla luna e non era riuscito a salvare un bambino in un pozzo. E a proposito della luna, mi viene naturalmente subito in mente il personaggio di Nicola, che è appunto questo bambino che frequenta le scuole elementari e il figlio appunto di Cristoforo e di Luisa. È un personaggio bellissimo, io l'ho amato molto in questo romanzo, perché a differenza degli altri personaggi in cui compare sempre una certa infelicità, un'apparente rassegnazione, una disillusione, questo bambino ha uno sguardo poetico, quasi incantato, anche se poi anche una sorta di coscienza critica nei confronti degli altri personaggi. E lui appunto è appassionato di luna, ma guardarla appunto con il suo telescopio. È un bambino speciale, un personaggio speciale all'interno di questo romanzo, fa un po' da contraltare a tutti gli altri. Sì, decisamente è la parte, diciamo, sana, secondo me, del romanzo, ma più che la parte sana è la parte che rappresenta appunto il futuro, la speranza. E lo sguardo del bambino e quindi lo sguardo di salvezza, perché solamente nello sguardo di un bambino ci può essere salvezza. Quindi ho affidato a lui questo oneroso compito di decifrare o cercare di decifrare una realtà complicatissima e nel frattempo di abbellirla, no? Quello che fa Nicola abbellisce la realtà con un moto di misericordia, è lui la misericordia nel romanzo. E infatti Nicola appunto incarna la misericordia, anche perché, come dicevamo prima, gli altri personaggi sembrano essere caratterizzati da questa sottile infelicità. Allora, è sicuramente un sentimento che può comparire in personaggi come Cristoforo e Luisa, sono dei cinquantenni. Ecco, in loro si vede un po' la disillusione della vita. Cristoforo guarda Luisa e si ricorda com'era quando lui si è innamorato di lei. Luisa si sente quasi ingabbiata in una vita che non aveva desiderato, aveva sognato una vita di un certo tipo e si trova a vivere in una casa vista cimitero, visto appunto che il marito fa il custode al cimitero. Ecco, questi sono due personaggi traditi dalla vita. Ma non saprei dire in realtà se sono stati traditi dalla vita. Sicuramente sono stati appunto disillusi dalla vita e credo questo sia una prerogativa probabilmente di una certa età, quando le cose si iniziano a guardare con occhi appunto non più così sognanti, che sono quelli dell'infanzia, quando a metà della vita si incominciano a tirare le somme, a fare dei bilanci e quindi probabilmente ci si rende conto, come loro si rendono conto, che si sono dovuti accontentare, come se fossero scontenti in realtà di un quotidiano troppo deludente, che non è andato incontro alle loro aspettative. Non li vedo miserabili, li vedo semplicemente molto realisti, ecco, insomma, con molti sogni infranti, insomma. Poi c'è il personaggio di Rita, appunto la figlia più grande di Luisa e di Cristoforo. Lei è una che sembra che la vita la voglia quasi mangiare, proprio mangiare nel senso fisico, perché è una ragazza tra l'altro che mangia parecchio, ma lei cerca per esempio la vita, il contatto, la spinta vitale andando a frequentare i senza tetto. Che personaggio è Rita? Beh, Rita anche è un personaggio che cerca una compensazione. È venuto fuori, che è un personaggio che ha fame, in realtà mangia cibo, ma la sua è una fame che chiaramente non è una fame fisica, è una fame, che si trasforma in fame fisica, ma in realtà ha un altro presupposto, è una fame di esistenza. E il suo cercare gli emarginati, insomma, gli ultimi, gli esclusi, in qualche modo la rende particolarmente interessante perché anche lì c'è una ricerca verso qualcosa che non è così ovvio, così scontato. È come se lei cercasse un altro sguardo. E quindi anche il suo sguardo è molto importante nel romanzo perché mette in luce appunto delle esistenze. Quelle sì, miserabili, in cui lei comunque cerca uno sprazzo di vita, di salvezza, e quindi il suo riscatto stesso, probabilmente. È comunque un adolescente, è comunque una persona che sta cercando qualcosa. Abbiamo detto che questo è un romanzo corale, quindi ci sono tanti personaggi, ma soprattutto tanti punti di vista sulla stessa realtà che questi personaggi vivono. Beh, sicuramente uno dei personaggi chiave è anche Rosaria, questa sedicenne incinta che viene ospitata appunto a casa della famiglia Imparato. È importante al fine della trama, insomma, perché succederanno delle cose, inizierà a scardinare un po' di meccanismi, forse lei li vorrebbe mettere a nudo in un modo, poi succederanno altre cose. Però anche uno sguardo molto interessante perché Rosaria sembra una ragazzina appunto che vuole creare scompiglio, in realtà sembra veramente essere un po' una vittima delle circostanze, è così? Sì, assolutamente, assolutamente così. Rosaria nasce come un cuneo, no? Cioè, che si infila nel tronco per spaccarlo, cioè lei è una che entra in questa famiglia e in qualche modo ne sovverte l'andamento, sebbene anche involontariamente non c'è un disegno preciso in realtà in lei, però con la sua presenza avviene questo, che il nucleo originario in qualche modo si scompensa. Però alla fine lei è una vittima, tra l'altro forse è veramente la vittima del romanzo, perché è quella che ne esce perdente in tutti i sensi, è la rappresentazione dell'anticipazione della delusione di Luisa e di Cristoforo, perché poi lei alla fine farà delle scelte che la porteranno a ricalcare esattamente, la stessa vita dei suoi genitori di questa coppia che in qualche modo è questa coppia di famiglia che l'ha ospitata, quindi è quella che paga il prezzo più alto in assoluto ed è anche una figura molto tenera secondo me perché incarna un femminile che viene malinterpretato, ecco, insomma, che è facilmente malinterpretato, cosa che succede spesso, no? E quindi lei si assume un ruolo che in realtà non ha scelto. e per questo è vittima. Ammetto che i miei due personaggi preferiti, essendo un romanzo corale, si può fare anche un po' una scelta, sono appunto Nicola e Rosaria per questo loro sguardo molto, molto sensibile anche nei confronti della realtà. Un'ultima domanda, senza naturalmente fare spoiler, però in che modo la vicenda di Vermicino, quindi la caduta nel pozzo e poi la morte di Alfredino, influenza e influisce sulla vita di questa famiglia? Perché abbiamo detto compare all'inizio e poi ha un'importanza determinante proprio nel creare un eco quasi ai sentimenti dei personaggi, nell'epilogo stesso del romanzo. Che peso ha appunto questa vicenda? Beh sì, questa vicenda in questa famiglia di questo romanzo ha un peso molto importante perché a quel punto lì credo che sia una sorta di eco e di tragedia, cioè quello che sta succedendo al bambino in qualche modo succede a loro che sono lontani e sono a casa e vivono un lutto, che non possono appunto elaborare quello che poi successe realmente a noi, credo, nel momento in cui eravamo davanti a quelle televisioni. Mi interessava la corrispondenza, ecco, di quello che succedeva all'esterno, che si riverberava comunque in ogni casa in qualche modo, come se lasciasse un segno, una sorta di cicatrice che sarebbe emersa poi col tempo, ha fatto proprio da detonature, ecco, insomma, questa vicenda qui, e soprattutto nella famiglia, appunto, poi magari non si spoilerà, però insomma, sostanzialmente è l'enfasi in crescendo, per cui c'è una dissoluzione esterna che diventa interna, questo. Grazie a Piera Ventre, ora in libreria con Sette opere di misericordia, pubblicato da Neri Pozza. Grazie Piera. E Grazie, grazie a te Alessandra. anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Come sempre, se volete, potete seguirci sui social. Siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio24 e poi su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.